cosa similare come abbiamo fatto noi, cercando di fare come abbiamo fatto noi, dai, diciamo. Solo che messo a paragone con le radio odierne, diciamo con le radio nuova generazione come il tuo, rimane un'emissione molto, molto stretta, capito? Proprio un'emissione militarizzata, un'emissione degli anni Ottanta. Niente a che vedere con l'emissione Yaesui come Ken Fu anche di oggi, proprio niente a che vedere. Comunque, bucano, hanno un'emissione che bucano il QRM, quello c'è da dirglielo, quello c'è da dirglielo. E poi usati nelle bande, proprio bande amatoriali, escono bene. Qua diciamo li prendono per chi ne è, escono forte, escono disturbi, escono a schifo, però in banda amatoriale sono belli da sentire, dai. Sì. Ho visto delle foto di loro, cos'è? Troncospina, Gennassilana, cos'è? Boh, Desolo, tutto bianco. Sì, è tutto bianco, è tutto bianco. Bene così, bene. Comunque, io ho chiarito col tipo, gliel'ho comprato, quella fare fredda che stavo credendo fare. Per un semplice motivo, sai quanto mi è utile a me e sai gli imbarazzi che ho, no? Dentro. Ma poi il problema è andare a comprare un altro. Mi viene a fare difficile, lo sai. Ah, ok, gliel'hai ridato, è venuto a prenderlo. No, l'ho chiamato e vabbè, abbiamo parlato un pochino, ho trovato dell'altra. Poi ho detto, ma ascolta, ma non stai vendendo. Ma tu lo potrei anche vendere, ho detto, ma sai, quello lo vendo. Io ne ho preso uno da poco, l'ho pagato 2,5, quello lo vendo anche 2,5, 2,3, ma se lo prendi tu 1,5, bene ti va. Sì, te l'hai preso. Sì, l'ho dovuto prendere per forza, dai. Anche perché, capisci, lo sai cosa voglio fare io in quella cosa lì, faccio il mio divertimento e poi è anche una cosa che una struttura così coibentata 10 cm in confronto a quelli che stanno vendendo che sono 3 cm, massimo 5 cm, il prezzo è molto più alto, quindi non vedevo la, come si dice, la convenienza, oppure prendere quelle casette in legno che ti costano sempre 1.500-2.000 euro e poi sono in legno e si avrà il gage, azzugante e tante altre cose. No, ma il legno no, perché o le fai in frassino, un legno che dura, o altrimenti quelle casette bisogna mollarle. Ma assolutamente, se ne fa o le resini, o le fa una resinatura, che poi fare il legno e comprarle, resinarle non costa tantissimo, fai che di resina spenderai altre 300-400 euro, però è fatta, una volta che tu la resini, solo fuori, non dentro e fuori, perché se la fai dentro e fuori frasicheggia, però se la fai solo fuori e dentro il legno respira, lì rimane bella, solo che la devi resinare. Lo so, però cioè, e quanto ce ne sono avuti di resina, quanto è il lavoro che fai, la devi carteggiare, la devi fare, no. Guarda, ho preferito fare così, perché effettivamente mi inguaiava, nel senso che ho un casino di roba dentro, cioè tu non lo vedi, ma è tutta stoccata, no? Perché sotto il tavolo c'è una bicicletta smontata di mia moglie che mai userà, comunque una grazia di quelle che si piega, c'è la culla di mio figlio, c'è roba da campeggio, un bel di roba, c'è tavoli, sì, questa roba qua, però non si vede nulla perché sta ben posizionata, cioè io ci devo lavorare lì, quindi l'ho dovuta, infatti quando gli ho preso la bicicletta Nicolas, gli ho detto Nicolas, vabbè usala come garage, però sappi che quando devo fare le salsicce devi sbattere fuori, però non rimane più riservata, dai. Sì, quando, vabbè, poi l'utilizzo tutte le originise, tutto quanto te lo fai, vabbè, se ti serve tanto, guarda, prendevi per quella cifra e poi non sai se lo trovi in quelle, diciamo, in quella maniera lì. Quindi hai fatto bene a prenderlo, hai fatto benissimo a prenderlo. Poi è nuovo, grande, è robusto, l'alluminio. Ui. No, vabbè, ma a parte che, come si dice, non marcisce, capito? Quindi non è un problema. E poi, insomma, è una cosa che a me interessa. E quello interessa, sì. E quelle lì sono le cose che servono. Quelle sono le cose che servono. A me me l'avevano chiesto, quello del mio furgone, se lo vendevo. E gli ho detto 4,5. Ho detto no, 4,5 no. Ho detto, ma tu lo vedi questa casa qua? Ho detto, questa casa qua è nuova. Questa casa qua ha 7 anni. È tutta ribordata in acciaio. È da 5 centimetri, non è quella da 3, è da 5 centimetri. Isotermica. E perché la mia non è frigo, la mia è isotermica. Poi ha le finestrelle, ha tutto, è nuova. La mia è nuova, già l'hai vista te. Ogni tanto devi lucidarla, però è nuova. Io quello di quella casa è costata 8.000 euro. Quella casa 7 anni fa è costata 8.000 euro. Io meno di 4,5 non la do, perché non stai parlando di un container, stai parlando di una casa isotermica della Racing Car, tutte le modellature in acciaio. Quindi sì, lo so. Vabbè, ma infatti ho detto, ma cioè, non posso andare a... Ma poi il problema è un altro. Allora, già, vabbè, lo deve togliere, ok. A lui gli sarebbe costata, perché il viaggio lo deve pagare. Il camion lo deve pagare, quindi... E non sono tutti i camion che entrano da me, e lui lo sa bene. Quindi già gli ho salvato un po' anche quel lato lì. Perché a me mi ha detto, lo sai che il mio camion non ci passa lì, tra l'altro il camion non entra per niente, perché già l'ha fatto danno, anzi. E gli volevo chiedere anche i danni del... però mi ha fatto un bello sconto, che però lascia stare la scorsa, non me ne fare, fregati. Tanto è una cosa che devo buttare. Ma poi se mi dovesse servire qualche cosa, me la dà senza problemi. E quindi, già toglierla quella, poi dovevo andare a comprarla. Se lo trovo e dove lo trovo e chi lo sa, mi devo pagare il viaggio, una volta pagato il viaggio me lo devo scaricare, riposizionarlo, è una serie di lavoro non indifferente, capito? Ma riposizionare il lavoro, quello lì è prendere o hai un camion gru o altrimenti è un problema anche caricarla quella roba lì, Puoi riposizionare, ugli a bara noi, il viaggio sarebbe... Il viaggio e il coso sono questione di soldi. Il riposizionamento è metterlo a livello, farlo, perché poi il tuo è già assestato, capito? Quello tuo è già assestato, già calodato. Secondo cosa buono in chi vi guai? No, ma hai fatto bene, poi l'alluminio, quella è un'occasione. Lo so, l'avevo avuto appena più grandicello, però già mi basta, a fare quello che devo fare. Prenditi un rimorchio. Ti prendi un 13 metri e quello ti dovrebbe bastare. Ma tu pensa che quello lì, adesso non so se mi conviene prenderlo o meno, quello ha anche il carrello, cioè praticamente lui ha il suo carrello originale con le scale, capito? Quindi rimane alzato da terra tipo, che ne so, un metro, ci sono 3-4 scalini per salire, è una cosa rialzata quello. No, volendo mi potrei prendere anche quello, ma il problema è un altro, che lo devo portare qua, uno, è già un problema quello. Secondo, ci vuole nuovamente il camion gru, è già un secondo problema. Il terzo è, ma lasciamo, non lo so, lascio così. Sì, lo lasci così e secondo me quello, trovando due belli assali e lo devi spostare, quello lì, mettendogli due anche quattro ruote un po' grandette, lo sposti con un trattorino, quindi da sapigli. A me quando sono entrato qua, quando sono venuto qua a vivo, ho detto, volevo comprare due semi rimorchi. Io volevo comprare due semi rimorchi a 13 metri, o 12 o 13 metri, mettere mettere a terra e farmi il magazzino grande mio, il capannoncino mio con i rimorchi, per togliere proprio il pianale e mettere solo la casa. Ah sì sì, ho capito, beh, non è male. E il fatto è che devono essere, devi avere quelli coerbentati, quelli frigo, e cosciani di 15.000 euro l'uno, cioè con 30.000 euro, però hai una cosa indistruttibile, una volta che fai il piano a un metro anche per salire, o 50 centimetri, cosa ne so, il piano in blocchetti sotto, li posizioni sopra, la scaletta per salire, quelli sono, quelli li piazzano i tulipi. Vabbè. No, quello era bello, infatti pensavo me lo dava completo così, invece non ci entrava nel camion il carrello, capito? Se no mi avrebbe dato anche quello. È che purtroppo non entrava nel camion e quindi l'abbiamo dovuto smontare, il contatore l'abbiamo dovuto smontare, ci stava giusto giusto nel camion, capito? Mentre invece il carrello è più largo. Ascolta, col 330 non te lo poteva avvicinare il carrello. No, cosa me ne fa, cosa, a parte il 330 non credo che possa viaggiare. Il problema è un altro, che sì, vado a portare quello, poi viaggio in barra Sinobi, cioè perché mi serve sempre un camion gru a disposizione che sia anche massiccia la grumi, perché vuoi comprare lì, lo sai che non so se tu conosci Aduilio, il camion Aduilio, il camion che ha giù meno per la vasia, quindi non quello grande grande, il medio. Perché deve sbracciare un bel, per metterlo, altrimenti a tiro dritto, anche se lo conosca lui, a tiro dritto già ce la fa a prenderlo, ma il suo camion va quella gru, basta che sbraccia due, che dà due sfili, e quella gru solleva 30 quintali. Beh, è arrivata l'acqua. No, sto usando, allora sto dicendo quello, non quello blu che guida lui, sappiamo bene, chiudi la finestra, amore, se ce la fai. L'altro, quello che dava agli operai, che non mi ricordo che cavolo è, comunque si è dovuto mettere dietro, culo al container, e tu l'ha fatta alzarlo, ma proprio soffrendomi, il container è attaccato al culo del camion. Perché ha sbracciato un bel, perché se lo prende di fianco, magari posizionandosi di fianco mai ce la faceva, no, il grande quello suo già ce la fa, però cantù a muovere su camion, un minimo per farti quel lavorino non ti prende meno di 600 euro. Sì, ma secondo te io lo faccio venire, a parte che non entra nel cancello dell'entrata quel camion lì, e poi non entra nel cancello mio, cioè dove vogliamo andare? Non fa, purtroppo quello medio ce la fa, ma ce la fa proprio limitato, proprio a me quando me l'ha messa Antonio, ma che le belle così, ma pesami, e tu sì, pesa. Ed è l'alluminio. Però è corbentato, anche la corbentazione con le cose è polistirolo e basta quella fare lì. Allora io ho tolto la finestra, sì, era polistirolo però pressato, un polistirolo un pochino più duro del solito, là. Sì, quel polistirolo per corbentazione. Cosa c'ha? Polistirolo e basta o c'è anche la rifinitura dentro? Dopo perché a vista c'ha legno, così è? No, a vista quel come ti posso dire, quella lamiera lucida bianca, la masonite? No, è proprio lamiera tipo le celle frigo. Crocro, già lo credo in Pisa, è a lamiera quello, capito? No, guarda, io ascolto, tanto erano i soldi della liquidazione, guardateli, tanto tu ne hai dato che sono andate a finire male, nel senso che non ho neanche visti, alla fine ho detto almeno qualcosa la vedrò, no? Esatto, quello ti ha tirato la battuta apposta per quello. Allora, ti racconto la storia, mi chiama, allora ti prima toccarmelo, devo chiudere i conti con te, quindi ti devo dare l'ultima tranche del faceva 2000 euro. Però noi dobbiamo parlare, si è girato subito, però noi dobbiamo parlare di una cosa, è il direttore, non mi dico con te, tu dimmi, no, perché cosa vuoi fare con quel contare? Con come se lo vuoi fare? Guarda, non avevo i dubbi che mi stavi chiedendo di quello, sì, perché adesso dai, mi serve anche a me questo e quest'altro, e invece lui voleva prendere, cioè lui me l'ha fatto apposta, no? Nel senso, o su compareggia oppure me lo deve restituire. E tu che ci fai qua? E vabbè, lì per lì, vabbè, ascolta una cosa, io te lo restituisco, dammi il tempo di svuotarlo, dopodiché vieni, te lo prendi, però c'è da fare una cosa anche, c'è da fare anche un'assicurazione, perché quando me l'avete portato mi avete buttato il muro, parte del tetto del cazzo, ci è rimasto malissimo. E quindi è sceso di prezzo. E quindi lì è sceso di prezzo me, perché lui ne ha comprato uno da poco, l'ha pagato quasi 3.000 euro, qua quanto mai tu lui. Perché mi ha fatto la portata, no? Poi parlando, ho detto, ascolta una cosa, dimmi quanto ne vuoi, io quanto stai vendendo. Ma lo stai vendendo, ma insomma, ero interessato a metterlo a casa, ma se lo vuoi tu, ora dicevi tu, te lo lascio a te, tieni presente che io l'ho pagato, mi ha detto 3.700, quasi 4.000 euro, e detto, ma non te le darò mai io quei soldi lì. no, lasciami finire, se lo vuoi tu, quello lo posso vendere anche 2.500, 3.000, però se lo vuoi tu, 1.500 bene ti vanno. Esatto, lascialo a casa, che va bene. Un attimo che chiedo a... chiedere a mia moglie della bambina com'è, che sono ancora in carte, vedrà quanto c'è la febbre, riprendo subito. Ehi, così almeno, altri 10 minuti e poi devo preparare la roba per i cani e poi sono un po' stanco, via, travagliatevi domani. Se riesco, devo andare presto a tagliarmi i capelli e poi... venire qua e tagliarmi, se piove no, però se non piove tagliarmi un po' di legna, perché sono accorto. Yes, aspetta, riprendo subito. Ehi, vai. Bobo, ma di passa di leva. Eh sì, anche qua è passata, Qua è passata abbastanza forte. Qua è dalle 6:30. Dalle 6:30 questa piovendo. Va bene, ti dico una cosa là. Dimmela qua, dimmi come sta Greta. Devi provare a togliergli, a vedere se c'è qualche attenuatore, sicuramente c'è qualche attenuatore. Allora, l'attenuatore ne ha tre attenuatori, però sono tutti quanti a zero adesso. E allora è proprio, è un buono, perché se tu, per esempio, nel 440, nel 450, ma anche nell'ICOM, quando io avevo l'ICOM, anche se attenuavo tutto, ma arrivavate sempre fondo scala, capito? Sempre, tutto attenuato, sempre fondo FM, fondo scala, e il lago si vedeva che si sbatteva e rimbalzava a volte. Con Franco sì, proprio che c'avevo vicino, quando usciva con 100 watt, proprio, dava il colpo. tu mi facevi la stessa cosa con il mille. Ah, e vabbè, cavolo. Sì, ma ti parlo tutto, l'RF a zero e l'attenuatore inserito. Cioè, come anche se staccavo l'antenna mi arrivavate a fondo scala. E vedi, quindi anche quello già cambia. A voglia. Cioè, è una cosa buona che non scenda a fondo scala in FM. Sicuramente è un qualcosa che ha la radio proprio per la protezione. Può darsi che sia anche quello, non so. Adesso per dire che sono con 4,50, scusami, sono con 4,50. Io pensavo che eri con 9,50 invece. E vedi, quindi già è una coppiata vincente. Ti dico la radio, ci sono 3 giorni di lavoro intensi, quindi ne è valsa la pena però. Almeno, poi in banda sicuramente ci sarà, in banda laterale ci sarà sicuramente una differenza abissale, perché in banda non l'avevamo fatto uguale, in banda era impossibile farlo uguale. Vabbè, però forse credo che in AM non lo so, lo sai, non mi ricordo se andava bene in AM. Avevamo lavorato per la M noi. Noi avevamo lavorato per la M, neanche per la FM. Avevamo lavorato sia per, principalmente per la M, poi c'erano i parametri del microfono che dovevi toccare per la FM. Però noi avevamo lavorato principalmente per la M su quelle due radio. Ma portare 950 in modulazione come va in trasmissione, come va 450, vai a rovinare il 950 perché lo rovini. Però si è andato a migliorare lo IAESU facendolo uguale alla M, uguale al 450, capito? Avevamo lavorato principalmente sulla M noi. Sì, è vero. No, vabbè, ma poi sì, poi abbiamo guardato anche in FM e andava bene. In FM dovevi togliere il processore e abbassare il mic gain. Non so se ti avevi preso a qualche appunto nel foglietto. Comunque in FM dovevi abbassare il livello microfonico in confronto alla M. Ma era uscita la chissà radio, la M era uscita la cannulata. Sì, va bene. Ma infatti, solo che ultimamente forse per via del microfono, perché non stava andando bene. Ma te lo sta controllando il microfono, sì? Ma sicuramente l'ha già fatto. Allora lui mi ha detto che tempo fa, lui ce l'ha preciso, tempo fa, non so chi gliel'aveva detto, qualche radioamatore, ha avuto lo stesso problema mio, schiacciava la portante e faceva quella lì. Allora gli ha consigliato qualche radioamatore di eliminare quei 3 tastini che ci sono praticamente sotto, no? Proprio eliminarli, nel senso che non deve andare neanche alle alimentazioni. E rimane perfetto. Però così facendo perdi tutte. Vabbè che tu non li usavi, puoi sempre lavorare sulla radio, quindi a te di quei tastini non te ne frega proprio niente, è vero, però vai a perdere le caratteristiche di quel microfono. Ma si interrompe in diritto, ha fatto bene a toglierteli. Sì, anche io l'avrei tolto. Se avendo per esempio usandolo su un Kenwood, no, perché quelli migliorano tanto, cioè fanno il microfono lo fanno esaltare molto di più. Però sulla radio di serie non te ne fa niente perché è l'equalizzatore, quindi ha fatto bene a toglierteli. Non lo so se li ha tolti, perché metto per me non ha niente. Io l'ho provato una mia radio e lui ha lo stesso, cosa, il 5000 mi sembra che ha, e non gli stava dando nessun tipo di problema, però voleva controllare bene. Il problema però c'è perché è evidente. Da me sì, da me sì. Il problema l'abbiamo constatato, e non solo io, ma l'ha constatato anche altre persone. E quello, non lo so, ma io, vabbè, vedrà lui, dai, è una persona che ha esperienza in queste cose, se ritiene opportuno fare un lavoro, credo che non ne possa fare a meno di farlo, quindi, dai, se lo fa vuol dire che vuol fatto. Allora, non lo so, vediamo, va. Vediamo cosa ne esce fuori. Yes. Quindi piatti chitarra radio, da me? Sì. Qua la sento anche più squillante. La senti più squillante, è vero? Sì, qua sì. Dai, primo giorno che vengo ti faccio una cosa anche nel 5.005. Niente. Dobbiamo prendere gli appunti e poi fare un lavoro, se lo vuoi fare. E ti esce come questa qua. Prepotente agghiacciante. Ti esce, dai. Lavora a livelli microfonici, sono migliori, non si parla né di vantaggio, non si parla niente, si lavora solo sul doppio, un doppio menu questa qua. Devi lavorare sul doppio menu e fare proprio alzare dei parametri, ma li puoi ti segni gli originali e poi se non ti piacciono ti rimetti. La fai di nuovo originale, dai, però tu la stai sentendo, si sente così, questa qua è la radio, mi sono messo e mi ho fatto quel lavoro lì. Sì, ma vabbè, nel mio interno, io ti ripeto, quando andavi, come si dice, andavi in FM, dovevo alzare a 30, se non mi sbaglio, in AM abbassare, perché l'amplificazione era troppo alta. Esatto, no, puoi regolare, io per esempio gli ho fatto solo la banda laterale, diciamo di modifica dei parametri, solo la banda laterale per rientrare per non uscire da quella soglia per pilotare, per fare un pilotaggio, mentre devi prendere, devi andare su un menu e poi abbassare un attimino un parametro e poi devi trovare un compromesso. Io per esempio il compromesso l'ho trovato col macchinina 50 e abbassando quel parametro lì, però vedi che radio che dà. Io l'ho provata col parlascolto, col preascolto, perché al preascolto sta radio e secondo me la timbrica vocale è ottima. Sì, va bene. Quindi, ma si può fare anche 5.005 perché sono le stesse radio. Lo so, è preciso. Aspetterò, lo accendo. Sto uscendo, sì. A voglia. Oh, lascia vedere. Com'è? Vediamo un pochino quanto di qua. Allora, com'è la funzione? Aspetta. La serva dei stravaganti. Allora, IC30 con l'FM. E c'è bisogno di toccarla secondo te? Guarda un po'. Il livello microfonico. Questo è a 30. Quando vado in AM è a 20. Mettilo a 20 a vedere. Mettilo a 25. Vabbè, adesso lo faccio, aspetta. Guarda un po' se ha cambiato qualcosa. E ha voglia. Aumenta l'amplificazione un pochino. Ma è del microfono? Sì. L'amplificazione della radio poteva aumentare anziché del microfono. No, la radio sta uscendo così, il microfono deve aumentare un po'. Guarda un po', perché ero a 8, adesso mi sta sbattendo da una parte all'altra, Lago. Cos'è più 5 volulitti? E allora abbassa, metti i toni, abbassagli appena appena il quanto è? A 5 anche quello, a base. A 5, a 1. te lo abbasso appena appena, proprio a 1 adesso, era 1,5. Ma sei distante però. No, sono a 25 centimetri. Sì. Fa un passaggio. Veramente, 25 centimetri, mi sono avvicinato per fare questa prof. Adesso sono a 20 centimetri, avanti. Abbassa appena l'amplificazione del microfono e vola la voce. Allora, come era prima, guarda, così è a 8. E tu ne a 1. Bene va. Di lusso. Lascia la voce. Mentre invece con l'amplificazione della radio è così, è a 25 anziché a 30. E sta erogando quasi 900, va. Diciamo che sta andando. Sì, questo qua. Beh, io sono. Non ho wattmetro attaccato, però. Lo sto facendo spingere un po'. Credo che siano intorno. Credo a 500, 450. Ma guardami, mi hanno detto che non cambia quasi niente, aspetta. Ehi, eccolo. Adesso è 1, c'è scritto 1. Cosa vuol dire? C'è scritto 1K. 1K, 1K. Fa meglio però, Va meglio la radio? Ha migliorato? Era in disaccordo? Bravissimo, era in disaccordo. Portalo all'accordo massimo tu e poi te lo piloti come vuoi dal power della radio. No, adesso è l'accordo massimo. L'accordo massimo è questo. Ehi, è che c'è freddo qua, sta scaldando la stanza. La scalda? Scalda sì. No, vabbè. Vediamo la potenza minore, aspetta. Allora, la potenza minore è 300 watt. No, però adesso non va bene, lo sai? Perché sicuramente lo accordare, aspetta. Guarda un po', ha cambiato? Sì, però ti sta allontanando dal microfono, è per quello, dai. No, sono sempre qua. No, vabbè, non mi piace a me così. Cioè non ti piace così? Perché mi piace più così? Lo so. Quando qua la fondo scala eri, fondo scala sei rimasto. La radio è più presente. Quando metti in alta potenza è più presente la radio. Ebbene sì, aspetta un attimino, perché poco fa era... Fermo. È fermo. Eccolo qua. Adesso va bene, forse. Vero? O meglio? Guarda un po'. Sì. Però noi, se ti ricordi, avevamo fatto il macchinino con l'amplificatore attaccato. Perché con l'amplificatore attaccato non... avevamo trovato il compromesso giusto a 30 con l'amplificatore attaccato. Tu poco fa mi hai fatto il coso, mi hai fatto sentire l'amplificatore attaccato. Adesso metti il mic gain a 30, 31, 32, vediamo un po'. Vabbè, l'amplificatore si è stonato a 30, eccolo qua, così a 30 l'amplificatore attaccato. Puoi anche sollevare ancora? Sì, alzami chi? Così a 9, guarda un po'. 39, giusto? Ah, no, ho detto così a 9 il micchino del microfono. No, la radio, porta la radio a 30, 35, porta. Eccolo qua, così a 35, guarda se ha migliorato qualcosa. Sì, porta a 40. Ma a vero sì, io buffando. Porta a 40, io non ti dico stupidaggini, porta a 40. No, perché mi sembra troppo esagerato. Esagerato è esagerato quando uno fa vino cattivo e non rientra più a casa. Fai un passaggio. Oh, perché si sta abbassando anche la voce della radio. Però è così. Puoi abbassare appena l'amplificazione del microfono, portarla a 8, 7, 8 e fammi un passaggio. Questa qua è la radio giusta, eh? Vai. Fatto, abbassato, adesso vediamo un attimino se accorda ancora. Si è al limite. Non ce la fa più accordare. Molla così. Questa radio è bella così. Con l'amplificatore attaccato è bella così. E invece così? Adesso non è amplificatore attaccato, eh? Ha cambiato qualcosa? È la radio più bassa. La radio un po' più bassa, sì. Attacca l'amplificatore. Vedi un po', guarda adesso. 1, 2, 3. Ogni schiccia. Vabbè, però voglio dire, noi abbiamo alzato l'amplificazione, come mai più bassa? Mai più bassa? Aspetta un attimino. Guarda, così ha cambiato. Così è sempre bella amplificata come quando hai l'amplificatore attaccato. Allora devo di una tacchetta praticamente. Esatto. Sì, a livello microfonico a 40, così è. Sì, a 40. Porta a 45 a vedere, attacca. Crepi la valizia, via. Aspetta un attimino. Eccolo qua, così è 45, guarda un po'. E si attacca con l'amplificatore. Eh sì, però ho dovuto. Vabbè, l'amplificatore microfonico è 8. Dassela così. Aspetta il telefono, aspetta. Vai. Aspetta, vai. Guarda un pochino, all'inizio fa una sorta di appena appena e poi si stabilizza. Va bene, dai. La modulazione. No, aspetta che prendo l'altro coso che registra meglio e te lo mando con l'altro, aspetta. Andale. Sei pronto? E pronto sono, dai, facciamo questa prova così almeno poi vado a mangiare i ragazzi che sono mangiano a me, dai, vai, sei pronto tu? Vai, quando vuoi. Ok, vediamo un attimino se cambia la modulazione uno dall'altro. Questa è la seconda prova, vai. Guarda, sì, se questa qua, questa è più reale, questa forse col telefono era un po', dai, non qua e come mi stai arrivando tu. Sì, sì, va meglio, va meglio. Aspetta, adesso mi stacco un attimino. Cioè il frontale, adesso l'ho messo in stand by. Il frontale non vuole, non ce la faccio resistere a toccarlo, Ascolta questo. Allora, però mi ha registrato senza essere attaccato, perché io quando ho staccato, ti ho detto quella frase lì, è più forte, mi pare, senza amplificatore la radio. No. Hai già attaccato l'amplificatore. Eh sì. Sì, già è caldo, attacco. No, per quello non c'è problema, guarda. Lo faccio anche in diretta, guarda un pochino, ha cambiato. Continua, fai un passaggio. Fai. Allora, se stai registrando ti faccio così attaccato, 1, 2, 3, 4, 5 prove tecniche e trasmissione, mentre invece così attaccato, 1, 2, 3, 4, 5 prove tecniche e trasmissione, dico la stessa cosa così almeno mi accorgo cosa è il cambio, vai. Guarda che ci avevi fatto. Allora, io non noto neanche differenza di cambio di modulazione, cioè se è più basso o più alto, sembra la stessa. Esatto, non cambia, adesso non cambia proprio niente, mentre se tu abbassi il MacKeying si sente la differenza, capito? Non è che da attaccato a staccato senti la differenza, cioè non è che quando tu attacchi è come adesso e quando stacchi è più bassa, no, quando tu abbassi il livello microfonico, tra attaccato e staccato senti la differenza, però allo stesso livello. Ti amplifica un po' più la modulazione, dai, quando tu attacchi. Mentre così sei uguale da attaccato e da staccato. Visto però che presenza radio che hai, tu considera che è una cosa fatta col computer, col portatile adesso, però al microfono, il portatile con un microfono esterno. Quindi un po' di... Poi devi notare anche la differenza tra la tua radio e la mia voce. Mi segui? Tra la tua radio e la mia voce, la chiarezza, e considera che io non urlo, quindi tu devi considerare quella roba lì. Te l'ho fatto apposta, perché ho messo anche la mia voce in mezzo. Sì, ma vabbè, infatti. Ah, neanche io urlo, la c'entra, io sto parlando tranquillamente, anzi, sono molto pacato per quando sono in radio, perché avendo microfoni amplificati cosa ti metti a urlare? Già va bene. Adesso ti avrei voluto fare la prova tra questa qua e i 450, così ti rendi conto. No, adesso no, perché devo fare un po' di roba, ma adesso stanotte non ce la faccio. Devo ancora cucinare la pasta questi qua e ce l'ho dentro casa e ce devo sbattere fuori. No, non adesso, la prossima volta quando ci sentiamo. E entri con 450, intanto c'è le registrazioni, non c'è bisogno che lo fai adesso. Intanto hai le registrazioni, te ne metti una a fianco all'altro e te le ascolti, poi mi torni la risposta. Comunque questa qua secondo me è il settaggio migliore di questa radio. Bene, lasciamola così allora, non la tocco, la puntello. Per come la vedo io e per come la ricevo io, sì. Tu sai cosa c'ho io per ricevere, quindi non uso autoparlanti di bambole, non uso neanche autoparlanti di coso, quindi io ti sto ascoltando alla grande, poi gli autoparlanti delle bambole, no, chi li usa, peggio per lui, si mette un paio di cuffie e ti ascolta bene. Andare, bravo capita. Grazie per tutto, per questo allineamento e per quant'altro. Al limite domani sarò un pochino più riposato, magari, tempo permettendo, ti ripeto, se ce la faccio tagliarmi un po' di legna, così la sera mi dedico un altro pochino qua, dai. Ti saluto e ti ringrazio. Buonanotte, tante cose belle, a te ancora. Ciao, Viccia, buonanotte. Via. Sì, domani speriamo che non piova, così mi taglio un po' d'erba fuori, perché ho iniziato e anche se sto male, però ho iniziato, altrimenti mi divento una larva e piano piano me la sto facendo. Se non piove mi taglio un po' d'erba e ci sentiamo domani sera, tanto sono a casa. O altrimenti si faceva, e se piove le radio sono accese, mi dedicherò qua a farmi qualcosina qua o in garage. Comunque, a domani, buonanotte, ciao Tino, a te a cuore familiare, e buonanotte anche a chi fosse qua a 2705 per fare un po' di ascolto. Ciao, alla prossima. Visto che sei in garage domani, guarda se trovi qualche pezzo di alluminio per fare un'antenna per la 27, per mettere una... un tempo avevo comprato una canna a pesca, no? Un tico che me l'ha fatta, però c'è troccante due, anche questa. L'antenna 27 è pronta, quando la vuoi montare è pronta, non ti preoccupare. Ce l'abbiamo già, non ti preoccupare. Ne ho due, mi sembra. Comunque, c'è, non ti preoccupare. Ciao T, buonanotte, a domani. Ciao, buonanotte. Canna a pesca, poi lo sai, se si attacca qualche sala con qualche dentice, è un casino, si tronca in presa, sei vicino a mare, tu. Pulo tu. Non ho mangiato una latta, vabbè. Un po' pesante c'era, ciao. Ciao.